Amazon ti porta l'intrattenimento più avvincente? Con gli insoliti supereroi di The Boys, incluso con Prime. Chi vuole un milkshake squisito e cremoso? Scappate! Acquista Dune Parte 2 per vivere un'epica avventura fantascientifica. Non è una profezia, è una storia. Qualunque cosa cerchi, trovi tutto qui, Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, tranne che per noleggiare o acquistare contenuti. Riservato ai maggiorenni, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni. E allora brindiamo. A noi. Alle occasioni che rendiamo speciali. E a quelle speciali che diventano extra. Alle tradizioni. Quelle quotidiane e quelle che uniscono generazioni. Ai piccoli momenti che diventano storie e poi storia. La nostra. A noi che in un giro ci mettiamo il nostro mondo. E al mondo che in un giro diventa nostro. In assoluto, ma anche mixata, perché sta bene con tutto e tutti. Alla nostra! Molinari, Fasciotto Vitali. Amici di Runtime Radio, siete pronti a scendere in campo con la trasmissione più pazza di questo europeo? Non perdete Euroludica 24. Il programma che vi porta dritti in porta, ma senza parlare di calcio. Mentre gli azzurri danno il massimo sul campo, noi vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sui paesi avversari. Dalle ricette segrete della nonna spagnola ai festival più stravaganti dell'Albania. E non finisce qui, vi sveleremo le regole del calcio come non le avete mai sentite, interpretate dalle menti più brillanti del nostro staff, le donne. Ma attenzione, potremmo ricevere una chiamata dal presidente di Narnia o dal ministro della felicità di Atlantide, perché i nostri collegamenti sono così esclusivi che non li troverete su nessuna mappa. Quindi, se volete ridere e imparare a tifare Italia in un modo tutto nuovo, sintonizzatevi su Euroludica 24, solo su Runtime Radio, la web radio geek. Euroludica 24. La trasmissione che fa gol a furia di cazzo... col divertimento. Volevo dire col divertimento. Euroludica 24, dal 15 giugno, sempre e solo su runtimeradio.it. Questa è Runtime Radio. Tra le onde del mattino, tra il sussurro e il destino, Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli de casa, bentornati, ancora venerdì, ancora le ore 7, ancora qui su runtimeradio.it, la radio che vi fa compagnia 24 ore su 24 con tanta roba, tanta roba, che non è la roba che viene chiamata roba, ma è altro tipo di roba, che però sempre roba è. Ma al di là di queste battute simpatiche e veramente meravigliose, vi do comunque il benvenuto a questo nuovo episodio, dove state calmi, perché qualcuno già si è agitato, qualcuno mi ha chiesto, state calmi ragazzi, state calmi che... non succede niente di grave, non succede niente di definitivo. Voi sapete che noi, in particolare su questa radio, penso che sia la radio con le pippe mentali più pippe mentali di tutte le radio che potreste trovare nell'universo mondo, e quindi noi facciamo dei ragionamenti, ci confrontiamo con noi stessi. Spesso e volentieri questo spazio è uno spazio intimo, anche personale. Noi utilizziamo i nostri show come forme terapiche, quasi, no? Terapeutiche più che altro. Però va bene, di questo ne parliamo fra un pochino. Nel frattempo dovrebbe uscire Snap Architettura Imperfetta, e non lo so se esce, ma dovrebbe uscire, eventualmente lo vedrete sul nostro canale broadcast su Telegram, che si chiama Runtime Radio, cercatelo, iscrivetevi, così siete sempre aggiornati su quello che succede su Runtime Radio e senza particolari spam o insomma troppo essere invasivi, insomma è tranquillo, lui vi dice solo le cose essenziali. Altrimenti c'è la nostra chat in costante fermento, dove comunque tutti gli amici, ascoltatori e i membri di Runtime Radio interagiscono fra di loro quando ci sono le live, ma anche quando non ci sono, che è sempre su Telegram, ovviamente, dirette Runtime. Quindi cercate su Runtime, sì, su Telegram dirette Runtime Radio, e vedrete che troverete questa meravigliosa chat, dove ogni tanto entra qualcuno, non saluta, dice cose, non dice cose. Ma questa è stata una settimana importante, ragazzi, perché è stata la settimana del ritorno di Pucrasi di Michela De Paola, con una bella intervista, e domenica uscirà la seconda puntata e domenica prossima uscirà la terza puntata. Ma soprattutto, anzi no, soprattutto non è rispettoso e soprattutto non è neanche corretto, ma oltre a questo, diciamo, la cosa un po' più straordinaria è il fatto che sono usciti ben 3 episodi di Data Nightmare, di cui l'ultimo, quello che è uscito ieri, è veramente una bella mazzata, soprattutto su Apple, ma in generale sul modo in cui tutti questi grandi brand della tecnologia mondiale facciano leva sul fanatismo dei propri fan per scardinare quelli che sono i presupposti e i principi legali e filosofici, ovviamente, di un'altra organizzazione politica, che è l'Unione Europea, piuttosto che gli Stati Uniti d'America. Sono tutte e 3 puntate abbastanza interessanti, ma l'ultima è veramente, veramente pesante, insomma, devo dire, anche se pure quella di mezzo su Assange, che, come sapete, insomma, è stato liberato, tra virgolette, sentite le virgolette? Ecco, sono tante tante virgolette. Detto questo, io direi che andiamo con tanta musica a casaccio questa mattina, così poi entriamo un po' nel vivo di quello che vorrei cercare di trasmettervi, di dirvi, insomma, in qualche modo. Adesso non mi ricordo se era Space o Ask. Ci proviamo? Vediamo, perché potrebbero succedere dei danni incredibili. No, Space non è, allora è Ask. Ammazza, quant'è cattiva sta canzone, oh. Riot of Violence Creator, che canzone cattivella, eh. Nemmeno il buon Leo Varghion ve la mette questa roba, eh. Comunque, capitolo 1, Runtime Radio ha concluso la sua missione? Serve ancora Runtime Radio? Ha senso di esistere oggi come oggi Runtime Radio? Come sapete, e vi ho raccontato tantissime volte, noi abbiamo iniziato a fare podcast dal 2010, ci siamo interrogati diverse volte su alcune questioni relative ai tanti programmi, alle forse migliaia di ore di intrattenimento che abbiamo prodotto per la gente, per il pubblico, per gli amici, per le persone che ci ascoltavano, per quelli che sono stati fan e poi sono diventati anche amici. Insomma, per tutte le persone che durante questi 14 anni quasi ci hanno portato veramente tanto, tanta energia e tanto affetto. Ho raccontato tante volte quando ricevemmo diverse lettere, e una in particolare rimarrà per me sempre storica, tra le tante delle persone magari in difficoltà che hanno ascoltato quello che tu facevi e in qualche maniera tu gli hai portato una sorta di conforto, no? Quell'ora e mezza, quelle 2 ore di spiraglio, un attimo di buon umore, magari all'interno di un contesto difficile, che può essere magari una situazione di salute, un ospedale, o appunto quel ragazzo che ci scrisse dall'Aquila dentro una tenda in attesa, insomma, di trovare soluzioni in un periodo sicuramente devastante della sua vita, dove magari tantissime famiglie hanno perso qualcosa o hanno perso anche tutto e erano in attesa di cercare di ricostruire qualcosa, appunto, se non tutto il resto della loro vita. E questo, ovviamente, oppure la mail di Ghostin Hunt, un personaggio misterioso che ci ha sempre seguito, anche se non siamo mai riusciti a capire chi fosse, ma che analizzava con estrema intelligenza e acume alcuni passaggi, si vedeva che era competente, una persona che evidentemente faceva una professione secondo la quale preferiva, ovviamente, per la quale preferiva magari non esporsi, no, come persona in generale, e che ci scrisse una lettera meravigliosa quando noi chiudemmo dietrologia videoludica, archeologia videoludica, poi vabbè, abbiamo fatto vari passaggi, insomma, nella nostra vita. E tutte queste persone comunque in qualche maniera, a volte nei momenti di scoramento, di difficoltà, anche di stress, ci hanno dato veramente tantissima energia, tantissima forza, perché a volte, e questo in particolare nella prima era con Italian Podcast Network, io vedevo questa cosa come una sorta di missione e coordinavo decine di persone a fare uscire i podcast, a stimolarli a far uscire i podcast, a far rispettare i tempi, i giorni di consegna, e mi ero reso conto che tutta quella roba mi aveva rubato energia in una maniera incredibile, e forse anche levandola a cose che avrei dovuto considerare più importanti. Non che ovviamente IPN o Runtime non sono importanti nella mia vita, ma forse lo sono stati troppo rispetto ad altre cose, no? E questo è una cosa che può essere considerata indiscutibile da questo punto di vista, e quindi questo mi creava a volte dello stress, mi svuotava di energie. Ci sono state tantissime volte che ho pensato di chiudere tutto, non di chiudere poi prendere una pausa, proprio di chiudere tutto. Cioè, a volte era come quelle cose che si accavallavano, tipo la bolletta della corrente che stai un po' in arretrato, e se non leggi quella lettera non c'hai il problema di saperlo, no? Cioè, una cosa del genere. A volte è diventata veramente una cosa gravosa, e un po' per il modo in cui io affrontavo tutta questa roba, no? E poi arrivavano queste mail, no? Anche a volte anche casualmente, e ti ridavano lo giusto spirito, ti ridavano la giusta energia. Perché? Perché poi alla fine qualcuno ti restituiva quello che tu avevi espresso, comunque avevi spremuto parte della tua anima e qualcuno l'aveva recepita, e per quel qualcuno ne valeva la pena. È sempre stato così, per qualcuno ne valsa sempre la pena, e avere un feedback e avere comunque un rapporto così importante con le persone, in realtà ci ha fatto a volte riconsiderare, anche quando noi dibattevamo tra di noi e dicevamo vabbè, però noi con i nostri podcast, qui tutti fanno i soldi con i podcast, noi siamo gli unici stronzi che non fanno i soldi con i podcast nonostante gli anni. Ma noi abbiamo fatto una scelta da questo punto di vista. Io non lo dico per la questione della volpe e l'uva, lo dico perché per noi è stato così. Noi abbiamo fatto una scelta di avere un rapporto autentico con pochi, piuttosto che avere un rapporto asettico con tanti. È stata una scelta che ci ha dato tanta soddisfazione da questo punto di vista. Non ci ha portato una lira, ma ci ha dato veramente tanta soddisfazione da questo punto di vista. E questo è un punto fondamentale del lavoro che noi abbiamo fatto. Il perché l'abbiamo fatto. Noi abbiamo iniziato perché per noi era interessante comunicare, esprimere le nostre opinioni, ma soprattutto era divertente. Lo facevamo perché ci divertivamo, lo facciamo perché ci divertiamo, però è chiaro che, nel senso, comunque la parte del feedback è stata sempre una parte importante, anche se non ce lo siamo mai andato, insomma, a cercare. Noi poi dicevamo all'inizio, magari avevamo l'ossessione dei numeri come ce l'hanno tutti quelli che iniziano sta cosa, no? Poi l'esperienza ci ha fatto capire che non ce ne poteva fregare di meno dei numeri, infatti siamo andati avanti serenamente per 14 anni, siamo arrivati ad oggi, che sono, diciamo, in linea massima 14 anni che noi facciamo questo, e non ci siamo mai arresi da questo punto di vista. Ci siamo chiesti tantissime volte perché, questo sì, e me lo chiedo anche questa mattina, perché. Tra tutti questi feedback meravigliosi che abbiamo avuto, secondo me Runtime Radio e Francesco Di Muro, ne parliamo tantissime volte di questa cosa e la ricordiamo già come se fosse un qualcosa di cui avere nostalgia, anche se non lo è, ma Runtime Radio ci ha avuto un momento importante, proprio storicamente, durante il Covid. Durante il Covid noi abbiamo percepito una maggiore attenzione da parte della gente, ascoltatori nuovi, persone che non conoscevamo, persone che si sono aggregate come se questa fosse veramente una famiglia, e come se da Runtime Radio si aspettassero qualcosa. E noi abbiamo percepito l'importanza di questa cosa, e se vi ricordate chi c'era, noi abbiamo garantito in quel periodo lì dove abbiamo concentrato il massimo del nostro sforzo, abbiamo garantito almeno una live al giorno di un programma qualsiasi. E poi queste live al giorno erano diventate due, e poi erano diventate tre, e poi Runtime Radio trasmetteva una quantità di programmi al giorno in live che erano completamente fuori scala, che non sarebbero stati probabilmente possibili in altri contesti, in altre situazioni, se non ci fosse stato il Covid. Ma per il Covid l'abbiamo fatto, e questo ci ha restituito tanto. Ci è arrivata veramente un'ondata di gratitudine, no? Ma non perché uno deve essere ringraziato, però l'abbiamo percepita sta cosa. La gente ci contattava, ci scriveva nella chat di Dirette Runtime, c'era una partecipazione incredibile nelle trasmissioni, c'era tanta ironia, si scherzava molto. Poi la vita è tornata alla normalità ed è giusto così. Non è un rimpianto, non è una critica o una condanna o qualcosa. La vita è tornata alla normalità. E anche Runtime, in un certo senso, è tornata alla normalità, ma aveva fatto quello step in avanti ed era a un passo così da voler diventare una radio veramente. E ci abbiamo pensato tanto, e io ancora ci penso, devo dire la verità. Ma c'è stato un momento in cui avremmo potuto fare quello step. Quello step che significa anche fare un investimento, cercare realtà sul territorio per farla diventare una radio territoriale e nazionale allo stesso tempo. Abbiamo cercato di capire se c'erano la possibilità delle risorse, gli investimenti, il pagamento delle licenze e tutta una serie di cose che ovviamente avrebbero portato Runtime Radio a diventare quello che poteva essere, ossia una piccola radio indipendente reale. Con dei presupposti anche commerciali, nel senso comunque quei finanziamenti che avrebbero dato la mano praticamente alla radio a poter sopravvivere. Tanto sentite il cane che a un certo punto prende e comincia ad abbaiare, questo per colpa di qualcuno che lascia le finestre aperte, però va bene. E comunque tutto è tornato alla normalità, fino a perdere feedback, ma soprattutto a perdere ascoltatori. Oggi io vi devo dire la verità, lo devo confessare. Io lo so che ci sono persone che sono veramente affezionate a noi, però lo volete sapere, ve lo dico perché è importante saperlo. Noi potrei dire chi se ne frega, veramente potrei dire chi se ne frega, però un po' qualche domanda me la devo fare, ed è giusto che sia così, no? Ed è in rapporto a ovviamente tutta una serie di situazioni. Oggi Runtime Radio è ascoltata da una decina, quindicina di persone. Nell'insieme un centinaio di persone al mese. È troppo poco. È oggettivamente troppo poco. Ma non è troppo poco perché Runtime Radio resti in vita. È troppo poco per l'energia e l'investimento di tempo che io metto su questa cosa. La schedulizzazione dei programmi quotidiani, le live, l'organizzazione delle live, contattare le persone, il supporto anche da parte delle persone che hanno collaborato con noi è di meno rispetto a prima. A volte bisogna andarli un po' a smucinare per collaborare. E quindi con questo non voglio dire che Runtime Radio smette di esistere o che non ci saranno più live o che non ci saranno più programmi live. No, questo continuerà naturalmente, perché deve continuare. Però, come ho già detto in altre situazioni, io devo anche concentrare il mio tempo su altre cose, su cose che ho abbandonato perché vedevo in questa cosa una sorta di ultima speranza anche per me, no? Nel senso, poi vi spiego dopo nella seconda parte quello che intendo dire. Però se voi considerate che io ogni giorno al mezzanotte mi metto lì a fare la schedulizzazione di tutte le cose che devono andare in onda il giorno dopo, mi rendo conto che oggi per una radio che durante il periodo di live non viene ascoltata praticamente da nessuno non ha senso, non è giusto neanche nei miei confronti. Cioè, è bello il fatto che tu tieni attivo un servizio perché è anche una questione di serietà, no, in qualche maniera. Però a che serve? Allora io a un certo punto prendo e butto tutti i podcast che abbiamo dentro, li mando a rotazione random e sti cazzi. Poi quando c'è una live uno via attacca e se taglia una trasmissione chi se ne frega. Va bene anche così, perché in fondo non può essere che uno concentra veramente talmente tanta energia su questo, la costruzione di database, la schedulizzazione, il controllo frequente su se funziona tutto, se è partita una schedulizzazione corretta, se è saltata una programmazione. Insomma, ragazzi, anche una radio stupida come questa, che viene ascoltata da decine di persone, c'ha bisogno di un impegno, un lavoro. Uno potrebbe dire: ma chi te lo fa fa? E me lo sto domandando io adesso, infatti, chi me lo fa fa? E questo è un punto di partenza importante. Quindi Runtime Radio continuerà ad esistere, le live, per chi vorrà farle, continueranno ad esistere, però è giunto il momento che la cosa o produce un risultato oppure non ha senso il tempo che io ci metto a disposizione. E io dico io, perché comunque sono io quello che ci dedica il tempo, ma ce lo dedicano anche gli altri, insomma. E quindi la domanda è: Runtime Radio ha concluso dal 2017 a oggi la sua missione? Da un certo punto di vista, secondo me sì. I'm 3 Big Twin. Fuck is poppin'. Big Gio, what up, what's poppin'? QB. E chi la furia? Don Joe! Infamous Mob! Due pequeño, Montenero! Quando vuoi! Ma veramente a volte rimango perplesso di quello che mi tocca sentire. Comunque, se guardo indietro, in generale penso a Michela, ad Alex, a tutti quelli della prima ora, quelli che comunque alla fine comunque hanno sempre messo energia, risorse, idee in tutto quello che abbiamo fatto durante questi anni. Io devo dire la verità, provo un grande orgoglio. Io sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, e secondo me dovrebbero esserlo anche loro, col pensiero, il fatto che un giorno sarebbe arrivato, arriverà, prima o poi arriverà comunque il giorno in cui io dirò a tutti: ragazzi, grazie a tutti, è stato bello. E prima o poi arriverà a questo giorno, perché è inevitabile, fa parte del ciclo delle cose, tutto comunque finisce. Forse non è neanche un caso il fatto che le cose da noi hanno cambiato assetto, hanno cambiato nome, hanno cambiato logo, proprio per cercare di portare, di rifinire le idee di partenza e portarle in una transizione con delle idee migliori, delle idee nuove, e per avere sempre un po' di vivacità, un po' di stimolo, no? Per non cadere poi nella routine, e quindi ovviamente anche nella stanchezza, no? Soprattutto per un progetto che non c'ha neanche la contropartita del guadagno, no? Non è una cosa che dice: sai, vabbè, che palle, alla fine faccio tutti i giorni sempre sta cosa da tantissimi anni, però è il lavoro mio, allora vabbè, lo posso pure capire. Però in realtà non è così, e questo è una cosa che va tenuta in considerazione. E quindi ci sarà una chiamata alle armi, un ragionamento finale, probabilmente una cosa che dovevamo fare da tantissimi anni, ossia quello di diventare associazione, diventerà vera, perché ci sono idee, ci sono progetti dietro Runtime Radio che potranno portare anche alla richiesta di fondi, finanziamenti, documentari, idee, tante idee ci sono dietro. Però Runtime Radio come radio, così pirata, piccoletta, ascoltata da qualcuno, ci sarà sempre con voi, ma non merita più questo mio impegno, questo tempo che io ci dedico. Ecco, questo lo voglio dire in maniera assoluta. La mia idea sostanzialmente è un'idea che non riuscirò probabilmente a portare a termine, è quella di aggregare X numero di soggetti sotto un unico marchio e creare un canale Twitch dove ci siano costanti live, sia audio che video, in modo da essere indicizzati e avere comunque fan, gente che ti segue, fare gli abbonamenti e prendere, diciamo, a seconda dei programmi che vanno in onda, magari comunque campare un po' su, cioè campare, insomma, autofinanziarci, diciamo, con gli abbonamenti, e anche ridistribuirli a seconda dei programmi, cioè nel senso: quanti abbonamenti sono stati fatti durante il programma XYZ, quanti abbonamenti sono stati fatti col programma ABC, e via dicendo, insomma tutta una serie di cose che possono essere ragionate e che comunque devono essere ragionate per capire appunto se c'è la possibilità di rendere anche più di portare questo progetto in una nuova generazione, perché noi abbiamo sempre portato un'innovazione, noi abbiamo cambiato il mondo del podcast in Italia, io continuo a dirlo e sono convinto di questo, perché quando la gente faceva i podcast con i microfonini della Logitech, noi abbiamo portato qualità da questo punto di vista. Poi dopo tutti sono stati tutti meglio, tutti sono stati più bravi, ovviamente più emergono le persone più la storia viene raccontata in una certa maniera, no? come la gente che dice chi ha inventato il computer l'ha inventato Bill Gates, insomma questo è un po' il senso di quello succede, ma questo ce ne frega fino a un certo punto. Quindi ci deve essere, diciamo, una focalizzazione in un progetto che possa raggiungere degli obiettivi e autofinanziarsi per poter poi diventare struttura. Per esempio, a me c'è l'opportunità da un certo punto di vista di prendere in affitto un locale, un ufficio, diciamo così, che sarebbe figo insonorizzarlo e farlo diventare un vero studio radiofonico, vero nei limiti, perché poi io faccio riferimento a quelli che, io con Michela sentiamo Radio Freccia, ma a volte anche Virgin Radio, Radio Freccia, e diciamo, ma questi stanno tecnologicamente messi peggio di noi. La qualità, il ritmo, la profondità del suono, il ducking che utilizzano, ma noi siamo su un altro livello. Poi loro hanno gli speaker impostati che parlano bene con tutto lo script gagliardo, quello che vi pare, va benissimo. Magari viene utilizzata come sorta di banco d'uscita delle scuole di speakeraggio, va benissimo. Però io penso che la gente la riconosce una radio di persone che parlano anche un po' al pubblico più direttamente, con più con brio, e con la qualità, comunque lo stacco tra voce e musica, la qualità tecnica. Ragazzi, noi su sta roba ci abbiamo messo le risorse e questo deve farci capire quanto, nel senso che se loro fanno schifo rispetto a noi e sono un'emittente radiofonica, c'è qualcosa che non funziona, quindi automaticamente bisogna anche ragionare sul fatto possiamo diventare qualcosa anche noi. Quindi c'è questo locale, questa scelta, però non ce l'abbiamo le risorse, dovremmo metterci questi 250 euro al mese così a sbafo, o 500 euro al mese così a sbafo. Non è possibile, non è fattibile, non è, ma anche se fosse possibile non è fattibile, perché non ha senso spendere, perché si tratta di spendere, buttare soldi propri per dare una casa a Runtime Radio dove anche gli altri collaboratori possono entrare, fare editing o fare lo speakeraggio direttamente nello studio vero tra virgolette, chiaramente, perché ribadisco, nel senso che come fa Radio Freccia la radio, ci vuole un mixer, un computer, dei microfoni, nel senso non è che stiamo a parlare un po' di insonorizzazione e via dicendo. Quindi c'è sta questa opportunità, però non lo facciamo perché non c'ha senso. Forse in altri tempi magari l'avrei pure fatta la pazzia. Questo mi dà proprio la dimensione sul quanto noi non siamo mai andati avanti e l'esigenza invece di diventare qualcosa di più invece c'era e c'è ancora, e quindi sta cosa va assolutamente tenuta in considerazione. Se invece si diventa un'associazione, si raccoglie un numero di associati sufficienti per poter coprire delle spese annue, prende un ufficetto piccoletto a 250-300 euro al mese e magari pagare una licenza annua, dato che l'attrezzatura, la roba ce l'abbiamo, non dobbiamo fare un investimento iniziale chissà quale, probabilmente si potrebbe anche fare. Poi a quel punto contatti le associazioni che possono essere più legate a te e dire: vuoi fare un programma? Riusciamo a fare dei programmi, numero X programmi live al giorno? Possiamo portare degli sponsor che portino soldi per produrre quei programmi? A quel punto cambia una cosa, diventi appunto una radio vera. Però purtroppo in questo momento non è così, e questo bisogna tenerlo in considerazione e bisogna fare un ragionamento, vedere un attimo dove vogliamo andare, dove vogliamo arrivare, è un discorso che abbiamo fatto tantissime volte, a volte abbiamo un po' sovrasseduto in tutto questo, e poi ci sono io. Ci sono io e c'è il grande reset. Lo so che, cioè, ma come ne parli così alla fine, tanto per... Sì, ne parlo un po' così alla fine perché... Ma no, ne parlo dopo la canzone. Diamogli un po' di dignità a questa cosa che devo dire. Eccoci qua. Allora ragazzi, me il grande reset in particolare, e io non so se l'avete capito o se comunque in qualche maniera questa cosa in qualche maniera traspare, però io ho fatto un percorso di vita importante da un certo punto di vista, impegnativo, ecco, lo possiamo definire impegnativo, e la forza che è servita per fare questo percorso di vita è stata tanta energia per essere come gli altri e tanta energia per essere superiore agli altri, e questo in qualche maniera mi è stato riconosciuto, no? Comunque la forza che magari ho applicato alle cose che facevo, alle cose che coordinavo, ai gruppi di lavoro che gestivo, alle persone con le quali interagivo, e a volte essere diventato un punto di riferimento, a volte essere diventato un punto di confidenza, a volte essere diventato magari non di ispirazione, ma comunque di aver stimolato anche gli altri ad essere di più di quello che loro stessi pensano di essere o che magari la vita gli ha assegnato come posto, diciamo, nel contesto, perché purtroppo è inutile negarlo che quando ci sono delle persone che nascono, diciamo, con degli svantaggi rispetto a degli altri, hanno poche scelte nella loro vita, o quello di accettare e assecondare il problema, il limite, o deprimersi per colpa del limite, o affrontarlo di petto il limite. E io ho sempre ma non è nel modo tipo se vuoi puoi e tu puoi raggiungere qualsiasi obiettivo, perché una persona senza una gamba non potrà mai fare i 9 secondi ai 100 metri, mai, in nessun caso, e quindi non c'è forza di volontà che tiene. Puoi raggiungere degli obiettivi, puoi importi il fatto che io un giorno voglio correre i 100 metri, sì, e ce la farai se vuoi, ma non raggiungerai mai gli altri obiettivi. Però poi ci sono cioè la terza via, che è quella appunto di accettare il limite, guardarlo in faccia, affrontarlo e scavalcarlo in qualche maniera. E non puoi scavalcarlo a 360 gradi, ma lo puoi scavalcare su tutto il resto dello spettro, che non è ovviamente quella cosa specifica. Questo ti insegna tanto nella vita, ti porta ad essere una persona anche forte di carattere, a volte sbagliata. Io ho anche spiegato, no, a volte quanto io fossi molto selettivo, o quanto fossi diventato molto selettivo a un certo punto della mia vita, mettendo una sorta di sbarramento, no? Anche esagerando, anche sbagliando, no? Da questo punto di vista. Però è vero pure che c'è il modo in cui io continuo sempre a sostenere me Gattaca, per quanto molti dicono che faccia schifo come film, secondo me è un film che da quel punto di vista, se non lo guardate un po' riottosamente, che palle, la solita storia, no, ma entrate un attimo in quella questione, e diciamo applicate metaforicamente alcuni concetti di quel film nella vita reale, perché in realtà poi alla fine il primo sforzo che tu fai quando parti con un limite, con uno svantaggio rispetto agli altri, è quello di raggiungere gli altri. È vero, a volte è una simulazione, sono d'accordo, ma se gli altri non se ne accorgono, hai fatto già il doppio del tuo lavoro. Poi se sei come persona orgoglioso da un certo punto di vista, se senti questa energia, senti di poter esprimere di più, ovviamente fai quello step in più per scavalcare, per superare quel livello. E se da una parte ti dicono che la stella che brilla doppio dura la metà, e questo è sacrosanto, dall'altra puoi raggiungere degli obiettivi che ti rendono orgoglioso. Ma io parlo di obiettivi, business, io parlo proprio di un rapporto con l'introspezione, un rapporto intimo anche con se stessi e col mondo che ci circonda. Avere la soddisfazione di essere arrivati dove neanche tu ti aspettavi di arrivare, dove non si aspettavano quelli della tua famiglia, o non si aspettava il medico che ti ha curato per tutta la vita, che diceva: io non pensavo che tu potessi fare questo. E quindi questa cosa può diventare arroganza o può diventare orgoglio. E nel mio caso è diventato tutte e due le cose, perché poi non è facile, diciamo, barcamenarsi, no, da questo punto di vista, cercare di scavalcare, diciamo, l'aspetto di presunzione, soprattutto quando sei più giovane. Ma comunque la grande maturità è quella di fare introspezione, fare ironia anche su se stesso, vedere i propri difetti, riuscire a essere, avere un rapporto satirico proprio con se stessi, quindi essere sferzanti anche su quelli che sono i tuoi limiti, che non sono più i limiti originali, ma sono i limiti che tu stai creando ovviamente nel tuo nuovo rapporto con il nuovo te stesso, con la nuova realtà che ti circonda. E io sono orgoglioso di quello che ho fatto nella mia vita, sono sempre stato orgoglioso, ma lo sono veramente. Io un tempo mi sarei anche emozionato dicendo: ce l'ho fatta in qualche maniera, chi l'avrebbe detto, no? E la cosa che mi viene sempre riconosciuta è il motivo per cui persone si sono avvicinate a me, o persone si sono anche innamorate di me magari, era proprio questo, no? Cioè questa energia, questo trascinamento. E quando io ho fatto lo switch, no, tra un giorno un cazzo come trasmissione, era molto rabbiosa, e il grande reset, questo dimostra quanto poi la mia vita passi un po' per alcune fasi anche un po' depressive, no? Nel senso che quando cambi in uno stato morale così, insomma, diciamo nell'arco di un tempo breve, evidentemente probabilmente qualcosa c'è, no? E quando ho pensato comunque al grande reset, ho pensato a queste cose che io ho imparato da me stesso e dal percorso che ho fatto, non sono la verità, ma possono essere un esempio, cioè possono dare stimolo magari alle persone a non vedere la vita che è una merda, tanto dobbiamo morire tutti e via dicendo, che per carità, poi ognuno se la vede come gli pare. Però dato che devi campare, e questa è una cosa forse la gente non... perché devi campare male? Perché se tu campi male è una scelta a quel punto. Sì, il mondo è una merda, tutto quello che te pare, però tu stai scegliendo di accettare questa cosa e basta, e non di affrontare magari la cosa e cercare in te comunque l'aspetto positivo che ti può far vivere meglio con te stesso in generale. Il mondo rimarrà una merda uguale, cioè non cambia niente da questo punto di vista. Però poi mi sono reso conto che se io stesso non ho le energie, non ho le forze in questo momento e non ho la convinzione di trasmettere quel messaggio che ho trasmesso sempre e costantemente nella mia vita, è inutile che lo faccio, perché ultimamente sto parlando di tante cose, anche di stronzate. Sì, ma ci sta anche nel grande reset, si parla pure di stronzate, di cose un po' più superficiali, no? Ci sta. Però a volte mi sono reso conto che non ce l'ho più quell'impatto, quella voglia di... ma perché tutto questo percorso della mia vita comunque in qualche maniera doveva lasciare il segno, e questo è il momento in cui sto pagando questo segno. In più poi sono successe delle cose a me proprio fisicamente, diciamo così, che mi hanno veramente messo a terra, lo devo dire la verità. Lo devo ammettere anche con fastidio, perché poi l'orgoglio che c'ho per, non sono mai caduto io. E poi non è vero, perché io sono caduto mille volte e mi sono rialzato. E questa volta vedo il momento della caduta, sto cadendo in questo momento. E quindi per me il momento del rialzarsi ancora non c'è. E questo mi dispiace, mi dispiace nei confronti di tutte le persone che mi stanno intorno, delle cose che dovrei fare, delle mie responsabilità. E in particolare mi dispiace nei confronti di Michela, che chiaramente sta lì e mi guarda e aspetta che io torni a essere quello che era una volta. Non che lei non sia disposta a sostenermi, aiutarmi, perché lei lo fa per cento questa cosa, cioè lo fa 1%, 2%, 3%, 100%. E quindi io in questo momento devo concentrarmi su questo, nel riprendere il mio cammino e nel capire che anche quello che sta succedendo, quello che è successo, era una cosa che sapevi che prima o poi poteva succedere, e che questo non può fermarti, non deve fermarti, e deve riportarti ad avere lo stesso rapporto che avevi con le persone che ti sono accanto e con le tue responsabilità e con gli impegni che tu ci devi avere. Quindi vedete che poi alla fine Runtime Radio, il Grande Reset, tutti i nostri impegni non sono una cosa staccata dalla nostra realtà o dalla nostra vita, ma sono la nostra vita e sono condizionate dalla nostra vita, perché fanno parte del nostro vissuto, della nostra quotidianità. Runtime Radio è la stanza, è una stanza della nostra casa, e questo vuol dire tanto, ragazzi, vuol dire tanto. Quindi a me piacerebbe, e lo so che non succederà più di tanto, perché purtroppo non ascoltate più. Questo è il fatto, ragazzi, cioè non ascoltate più, però mi piacerebbe, insomma, avere un feedback da parte vostra su questa mia confessione finale, sul mio rapporto con me stesso, sul cercare di trovare energie e di non voler mollare Runtime Radio pur dandogli la giusta collocazione, una cosa che dico da tempo, ma la sto metabolizzando e prima o poi comunque dovrò fare, insomma. E questo è un fatto, insomma, lo devo alla mia vita, alla mia famiglia, al mio amore, a tutte le persone che secondo me meritano di rivedere un po' di luce da questo punto di vista, in questo momento in cui, come è capitato altre volte nella mia vita, mi sono diciamo barricato, però questo barricamento di questa volta è un po' diverso, è un po' più autocommiserativo, ecco, diciamo così, e non va bene. Quindi vi ho detto quello che dovevo dire. Se volete darmi dei feedback, scrivermi anche in privato e esprimermi quello che pensate, o dare dei consigli, delle esortazioni, oppure cosa pensate del discorso della Runtime Radio, o anche suggerimenti, idee, proposte per il futuro, dato che comunque poi ci dovremo concentrare, io e Michela, su delle cose, dei progetti nel futuro, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista del content creation. Quindi alla fine abbiamo bisogno di energia in questo momento, ho bisogno di energia, ho bisogno di ritrovare Simone, quel Simone Pizzi di cui sono sempre stato orgoglioso. E vabbè, ragazzi, dai, che sono quasi le 8, sono quasi le 8, e spero che vi sia piaciuto questo episodio. ci sentiamo prestissimo. Sicuramente continuerò il venerdì a fare live, leggendo notizie, facendo quello che fanno nelle radio tutti quanti. Ma ho bisogno un attimo di staccare il pensiero di che mo venerdì di che parlo. Perché infatti oggi venerdì avrei dovuto parlare di una cosa, ma vedete che durante la settimana non vi ho mandato il classico messaggio: cosa ne pensate di questo, questo e quell'altro. E vabbè, comunque ci tenevo a fare questo programma. Mi dispiace se magari persone che comunque gli faceva piacere ogni tanto sentire le mie esortazioni, ma torneranno le mie esortazioni prima o poi. Ma è inutile che penso di esortare le persone se non so esortare me stesso, insomma. Quindi buon venerdì, e praticamente fra oggi pomeriggio inizia il fine settimana, secondo gli inglesi. E buon fine settimana, buon tutto quanto, e statevi bene, buona giornata. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.